Il codice recita così. Se la lunghezza della corda è maggiore o uguale a 10, allora acqua raccolta uguale falso. Altrimenti, se la lunghezza della corda è minore di 10, allora acqua raccolta uguale vero. Quali elementi dovete invertire affinché l'incantesimo funzioni nel modo corretto?